Con Mobetta Football già da un anno abbondante, insomma, ci siamo interrogati su quella che ci sembrava una necessità, perché l'accesso allo sport in generale, non solo il calcio, per i ragazzi adesso diciamo che non è più quello di qualche anno fa, no? Ci sono società sportive, scuole calcio comprese, che richiedono un esborso economico da parte delle famiglie, c'è bisogno spesso che comunque le famiglie siano organizzate o disponibili a portare i ragazzi, quindi diciamo che l'accesso allo sport forse non è più così trasversale come era un tempo. Poi sul calcio di strada nello specifico noi abbiamo riflettuto anche sul fatto, insomma, è un tema abbastanza dibattuto ultimamente, no? Sulla penuria di talenti che ci sono nel calcio italiano, e spesso si parla di calcio di strada. Ora, questo non è uno degli obiettivi primari dell'iniziativa, perché non crediamo che attraverso questa iniziativa troveremo il nuovo Zidane. Però è anche vero che probabilmente questa cosa delle scuole calcio forse appiattisce un po' certi aspetti anche tecnici, mentre un calcio più, definiamolo, naturale, ruspante, si presta invece a sviluppare una tecnica forse meno educata, ma che poi nel tempo regala più estro. Il terzo aspetto è quello, noi viviamo la realtà di Modena, ci sono tanti ragazzi anche di seconda generazione di immigrati, da cui insomma l'accesso allo sport è particolarmente complicato. Stanno comunque magari in strada, nei parchi, però passare il tempo a fare nulla, a volte in certe zone magari anzi si creano anche delle tensioni. Quindi, mettendo insieme queste cose, ci siamo confrontati e abbiamo pensato che valesse la pena lavorare su un progetto del genere. Infatti mi parlavi prima di queste partite pilota di esplorazione per vedere come avrebbero reagito ragazzi giovani, meno giovani, a questa iniziativa. Quindi ti chiedo di raccontarmi, per quello che siete riusciti a vedere, che riscontro c'è stato finora? Quando abbiamo cominciato a ragionarci, qualcuno era più convinto di qualcun altro, diciamo così. Quindi abbiamo pensato di fare delle prove. Io faccio il mio esempio, che ero uno di quelli più scettici. Già la prima volta, quando siamo andati in 4-5 di noi con un pallone, semplicemente a un certo punto, ma uno di noi ha fatto in modo che il pallone andasse verso un gruppetto di ragazzi che era seduto su un marciapiede, banalmente, e loro, dopo averci rimandato, hanno chiesto se potevano unirsi. Nel giro di poco, veramente di 15-20 minuti, si sono aggiunti altri ragazzi. Lì vicino, dove abbiamo provato, c'è un convitto per minori non accompagnati, sono usciti altri ragazzi. Direi che ha funzionato, io sono rimasto piacevolmente sorpreso, ha funzionato. Abbiamo rifatto questa cosa un altro paio di volte ed è sempre andata allo stesso modo, e abbiamo poi fatto un secondo step più organizzato, coinvolgendo una scuola superiore di Modena, che abitualmente ha un torneo di calcio suo interno, provando a proporgli questa alternativa. 5 classi hanno aderito e abbiamo visto che poi anche i ragazzi, insomma, quelli normalmente scolarizzati, no, che hanno una frequenza della scuola normale, si sono appassionati. Quindi tutto quello che è stato il percorso preparatorio è stato molto, molto positivo. L'hai provato anche tu sulla tua pelle. Queste iniziative possono essere un ottimo spunto per creare aggregazione sociale, per creare comunità, che alla fine è la base dello sport. E dunque avete intenzione di ampliarlo, collaborando proprio strettamente anche con non solo scuole, anche appunto centri per minori non accompagnati in futuro? Guarda, esatto, hai fatto un quadro preciso di quello che è l'intenzione, nel senso che sicuramente la parte fondamentale è quella spontanea. Noi vorremmo che dopo un po', che magari questi incontri in qualche modo siano guidati, definiamoli così, l'obiettivo massimo sarebbe vedere che poi questa cosa prosegue anche senza un'organizzazione vera e propria. Però a fianco abbiamo coinvolto delle cooperative, delle comunità che si occupano di minori non accompagnati, ma non solo quelli, no? Ci sono anche un paio di realtà che si occupano di ragazzi che hanno comunque bisogno di un supporto, per cui sì, ci sarà anche questa parte che andrà ad intrecciarsi con quella più spontanea, appunto.